di non far come tutte le altre. Non sarò mai al posto del passeggero. Questo tiro spero attiri su Marte, che qui non importa più ciò che è vero. Non mi aspettavo così da grande, eppure il mondo era diverso. Spero siamo veri, non siete speranze che ho, ma se ci penso forse avevo. Non presta di più tra e fa non mi respiro, ma se non va ne faccio una su. Ok, ora è ok, non capisco il motivo, se è perché mi fu. Non presta di più tra e fa non mi respiro, ma se non va ne faccio una su. Ok, ora è ok, non capisco il motivo, se è perché mi fu. Tieni un tono da parte di Thomas Cash. Solo la mia flippava la collana. Questi vivono per poter far flex. Che con flex, con le mesh e minchia edo. Oh my god, mamma, non vedi che differenza abbiamo? Io che ci ho iniziato da un garage, tu che ci finirei la mia car. C'è un abisso tra chi crea chi ha la papa pronta. Ringrazio il cielo di stare qua e di avere la coscienza limpida. Non mi aspettavo così da grande, eppure il mondo era diverso era. Spero sia felino se mia speranza che ho. Non presta di più tra e fa non mi respiro, ma se non va ne faccio una su. Ok, ora è ok, non capisco il motivo, se è perché mi fu. Non presta di più tra e fa non mi respiro, ma se non va ne faccio una su.